Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi parliamo di uno dei più grandi neurologi di tutti i tempi, ma soprattutto di uno scrittore che ha scritto molti libri nei quali ha indagato all'interno della psiche, del cervello, diciamo dell'anima dell'uomo, libri peraltro bellissimi, ne parleremo. Muore e prima di morire scrive queste parole. Non posso fingere di non avere paura. La mia attuale sensazione predominante, però, è di gratitudine. Ho amato e sono stato amato. Mi è stato dato tanto e qualcosa ho restituito. Ho letto e viaggiato e pensato e scritto. Ho avuto una relazione col mondo, quella speciale relazione tra scrittori e lettori. Soprattutto sono stato un essere senziente, un animale pensante, su questo pianeta meraviglioso. E questa cosa in sé è stata un enorme privilegio e una fantastica avventura. Eh sì, ci sono persone che muoiono in preda alla rabbia, alla disperazione, allo scoramento, al senso di incompiuto che immagino ti colga in quel momento estremo, e altre che quando sono vicine alla fine provano come sentimento prevalente quello della gratitudine. La fine per il nostro protagonista arriva il 30 agosto 2015 per colpa di un tumore, e stiamo parlando dell'autore di moltissimi libri famosi, Risvegli, L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello. Stiamo parlando di Oliver Sacks, un uomo che ha passato l'intera vita a fianco di persone malate, un uomo straordinario che ha saputo comunque, o forse proprio per questo, trarre gioia e appagamento dalla relazione con i suoi pazienti. I'm addicted to patients. Sono dipendente dai miei pazienti. Non riesco a stare senza di loro. Sento il bisogno di queste altre vite che diventano parte della mia. L'empatia non è sufficiente per me. Sento il bisogno di sentirmi davvero nei loro panni per capire di cosa si tratta. E in tutti i lunghi anni della sua pratica medica, Sacks è certamente riuscito a entrare nei panni dei suoi pazienti, però ha fatto molto di più, perché ha saputo raccontare le loro storie, e grazie a lui le vite delle donne e degli uomini che hanno sofferto di patologie estraniate, anche assurde a leggersi, patologie debilitanti, hanno sofferto e conosciuto il dolore e hanno avuto restituita, grazie alle parole di Sacks, la dignità della loro esistenza, e non sono stati dimenticati e non hanno vissuto inutilmente. Perché Sacks era uno innamorato del cervello, nonostante fosse un grande appassionato di chimica, in realtà lui decide di studiare medicina e si specializza in seguito proprio in neurologia. Molti anni dopo, quando ormai è un medico affermato, cercò di spiegare la sua passione per la mente umana. In questo momento sono interessato al linguaggio e alla coscienza, ciò che fa di noi le persone che siamo. Perché il cervello è ciò che sei, non il cuore. Puoi anche trapiantare un altro cuore, ma non un altro cervello. Perché è il cervello che fa diversi gli uomini. È il cervello che imprime una specifica direzione alla storia della vita di ognuno di noi. Secondo Sacks, è la storia di ognuno che rende così affascinante il mestiere di medico, un mestiere che non può limitarsi a trattare la malattia senza occuparsi del malato. Questa è una delle grandi chiavi del suo pensiero. L'essere umano nella sua specificità è sempre stato centrale per me. Non è sufficiente dire quello ha l'emicrania, quello ha il Parkinson, ma bisogna chiedersi com'è la vita per quella persona con l'emicrania o il Parkinson in particolare. Qual è la loro esperienza? Come reagiscono? E quindi l'elemento umano, il parlare della vita che si fa con quella malattia, è certamente la parte più essenziale della medicina. L'avventura medica di Oliver Sacks inizia molto presto, perché lui è figlio di due illustri medici, anzi, per essere più precisi, il padre è un medico, mentre la madre, Muriel Elsie Landau, o Landau, è una delle prime chirurghe a esercitare in Inghilterra. La sua è una famiglia ebrea molto influente, piena di scrittori, statisti israeliani, economisti. Lui è l'ultimo di quattro figli. Nasce a Londra il 9 luglio del 33 e già da piccolo è un ragazzino molto dotato, particolare, pericolosamente sviluppato. Quando a 5 anni gli chiedono quali sono le cose che gli piacciono di più al mondo, risponde: il salmone affumicato e Bach. Rimarranno sì due grandi passioni per tutta la sua vita, però insomma a 5 anni forse ci si rivolge in genere ai soldatini o ai pupazzi. E poi arriva la Seconda Guerra Mondiale, i genitori sono impegnati a curare i feriti, lui viene mandato via dalla capitale per via dei continui attacchi aerei nazisti, va via insieme al fratello Michael e va in un collegio in campagna dove la vita è molto dura, anche perché il vitto è poverissimo, consiste in strape, barbabietole, i ragazzi vengono frustati con crudeltà da un preside che è al limite del sadismo. I due ragazzi tornano a casa nel 43, però Michael, sconvolto dall'esperienza, inizia a manifestare una psicosi che lo accompagnerà per il resto della sua vita, e anche la strada di Oliver in qualche modo è già segnata. Entrambi i miei genitori avevano ricevuto una formazione neurologica ed era dato per scontato che avrei seguito le loro orme, ma non erano solo medici, erano anche dei narratori, soprattutto mia madre, che adorava raccontare le storie dei suoi pazienti. Le raccontava a chiunque, al lattaio e al giardiniere, tanto quanto ai suoi studenti o ai colleghi. Non faceva differenza fra un discorso professionale e uno non professionale. Succede lo stesso anche a me. Il falco e il gabbiano. Stiamo parlando del grande neurologo e grandissimo scrittore Oliver Sacks, e siamo partiti dalla sua infanzia, come è giusto che si faccia. Però all'inizio il suo primo amore non è la neurologia, è la chimica, e lo racconta in uno dei suoi libri che si chiama Zio Tungsteno, ricordi di un'infanzia chimica. Insomma, fin da piccolo vuole capire la composizione della materia, e la tavola degli elementi lo affascina più dei soldatini, per esempio. Molti dei miei ricordi d'infanzia sono legati ai metalli, come se avessero esercitato su di me un potere immediato. Spiccando sullo sfondo di una realtà eterogenea, si distinguevano per la lucentezza, il bagliore, l'aspetto argenteo, la levigatezza e il peso. A toccarli erano freddi e quando venivano percossi risuonavano. Però la famiglia ha idee molto diverse sul futuro del bambino, soprattutto la madre. La madre è una pioniera della chirurgia, lo porta in ospedale. Qui nascono i primi problemi, quantomeno le prime stranezze, perché a soli 10 anni gli fa dissezionare il suo primo cadavere. È un'esperienza fortina per un bambino di 10 anni. Però c'è anche da dire che Oliver è una specie di ragazzo prodigio, e certo è che con test di questo genere i risultati possono essere inaspettati, perché se fai dissezionare un cadavere a un bambino di 10 anni, o ti trovi con un figlio genio o più probabilmente con un figlio disadattato, o tutte e due le cose assieme. Quando avevo 12 anni, un insegnante sensibile scrisse nella sua valutazione: Sacks andrà lontano, purché non vada troppo lontano. Nonostante la passione per la chimica, alla fine lui cede alle sollecitazioni familiari, insomma si iscrive a medicina a Oxford. Sono anni durante i quali Sacks trascorre le giornate solo a studiare, senza nessuno svago, tanto che addirittura si preoccupano i genitori strani che ha. Avevo 21 anni ed ero a casa dal college. Una sera accompagnai mio padre per il suo giro di visite. Stava guidando la macchina quando mi chiese come andavano le cose. Bene, dissi io. Poi mi chiese se avevo la fidanzata. Risposi di no. Allora mi chiese come mai. Gli dissi che forse non mi piacevano le ragazze. Ci fu silenzio per qualche istante. Poi mi disse: vuoi dire che ti piacciono i ragazzi? Sì, risposi. credo di essere omosessuale. Dopo questa rivelazione, Sax chiede al padre di non farne parola con la madre. Ma qui esplode una polveriera, perché la madre, che sembrava così tollerante, con la voglia di far studiare il figlio, e in realtà, siccome il padre è poco prudente e lo racconta alla moglie, lei si presenta in camera del figlio, lo aggredisce, gli urla: sei un abominio, vorrei che non fossi mai nato. Insomma, per Oliver è uno shock, tanto più che dopo questa esplosione, seguita da un silenzio della madre durato più di 3 giorni, l'argomento non verrà mai più affrontato in famiglia, con la conseguenza che Sax avrà sempre difficoltà a permettersi una vita amorosa e sessuale veramente appagante. Per anni ha nascosto la sua vera natura a tutti, oltre che a se stesso. Frugava nei cervelli degli altri, ma la porta del suo cervello era assolutamente sprangata, chiusa dal di dentro. Ma torniamo agli anni di medicina, perché dopo la laurea lui fa pratica per qualche anno in Inghilterra, passa dall'ortopedia all'ostetricia prima di trovare la sua reale vocazione. Però gli sembra di essere uno che non va da nessuna parte. I miei studi di anatomia e fisiologia all'università di Oxford non mi avevano preparato per nulla riguardo alla medicina reale. Vedere i pazienti, ascoltarli, cercare di comprendere, o almeno provare a comprendere, le loro esperienze e le situazioni difficili, sentirsi preoccupato per loro, assumersi la responsabilità nei loro riguardi, si trattava di un fatto abbastanza nuovo per me. Non era solo una questione di diagnosi e di cura. Si trattava di porsi domande ben più importanti, domande sulla qualità della vita e, in alcune circostanze, persino se la vita fosse degna di essere vissuta. Così Sax decide di partire, va in Canada, poi in California, a San Francisco completa la sua formazione in neurologia alla UCLA, l'Università di Los Angeles, inizia un periodo di ricerca, ma non solo scientifica, forse deve calmare l'inquietudine dell'anima, l'infelicità dovuta alla sua natura, insomma inizia a sperimentare anche le droghe di qualsiasi genere e in dosi massicce. From Monday to Friday I devoted myself to my patients at UCLA. Dal lunedì al venerdì ero votato ai miei pazienti alla UCLA, ma tutti i weekend in cui non uscivo in moto mi dedicavo ai miei viaggi virtuali, ai trip con la marijuana, con i semi di Morning Glory, con l'LSD. Era il mio segreto che non condividevo con nessuno e di cui non parlavo. Dopodiché tornavo al lavoro il lunedì mattina, a volte scosso e quasi narcolettico. Ma credo che nessuno abbia mai capito che durante il weekend ero partito per lo spazio interstellare o ridotto allo stato di un topo elettrificato. Quando la gente mi chiedeva cosa avessi fatto durante il weekend, rispondevo che ero stato fuori. Quanto fuori e in che senso? Credo non lo scoprirono mai. Sono anni di eccessi e finalmente è lontano dall'atmosfera oppressiva, invivibile di casa, da questa madre castratrice, da questo fratello psicotico. Insomma, lui approfitta dell'atmosfera libera, sperimentale e tollerante di San Francisco, perché sono anche gli anni della cultura psichedelica di Timothy Leary, della poesia di Allen Ginsberg, della libertà sessuale, e lui ne approfitta e intanto consuma molta anfetamina, diventa amico del poeta Thom Gunn e finalmente ha i suoi primi rapporti omosessuali. Viaggia per la California in moto, un'altra delle sue grandi passioni, e si veste di pelle dalla testa ai piedi e si appassiona al sollevamento pesi. A un certo punto stabilisce addirittura un record. The Central YMCA in San Francisco. Il YMCA nel centro di San Francisco aveva un'ottima attrezzatura per il sollevamento dei pesi. Allenarmi intensivamente, quasi in maniera ossessiva, mi dava pace. Un giorno, un altro atleta mi incoraggiò a fare un tentativo per il record californiano di squat. Ci provai senza troppa convinzione e con immenso piacere stabilì un nuovo record. Uno squat con un bilanciere da 272 kg sulle spalle. E per me quel record atletico aveva la stessa importanza di una pubblicazione scientifica o un libro per un'accademia. Il falco e il gabbiano. Stiamo parlando del grande neurologo, del grande scrittore Oliver Sax, quello che per primo ha saputo parlare della malattia con un interesse non solo medico, ma umano, con interesse e solidarietà, è riuscito a rendere ogni singola storia un piccolo romanzo. Storie vere, storie dei suoi pazienti. Prima di lui non esisteva una vera e propria letteratura medica che non fosse solo per gli addetti ai lavori. Sacks ha il merito di restituire un'identità ai malati mentali usando un linguaggio facilmente comprensibile. La scrittura è ciò che permette di ricostruire una mappa della malattia, al tempo stesso di rintracciare che cosa è veramente importante al di là delle manifestazioni incomprensibili della mente, cioè l'uomo. E inoltre, forse attraverso anche i suoi racconti, lui in qualche modo vuole risarcire il fratello Michael, che è psicotico, schizofrenico, la famiglia l'ha sempre tenuto nascosto, e lo stesso Oliver si è allontanato da lui trasferendosi in America. Credo che tutte queste storie parlino di lotta, di sopravvivenza, dell'andare oltre, e tutti dovremmo capirlo. E non è stato un percorso facile. E negli anni questa sua facilità con la parola scritta, con questa sua volontà di mettere sulle pagine le vicende dei suoi pazienti, comincia a sollevare delle perplessità, perché per molti colleghi Sacks si è servito della sua posizione privilegiata di medico per assicurarsi fama e denaro alle spalle dei malati. Un attivista dei diritti dei disabili ha parafrasato il titolo di uno dei suoi libri più famosi, L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, con L'uomo che scambiò i suoi pazienti per una carriera letteraria. Beh, è evidente che se vendi in 25 paesi milioni di copie arrivano anche le critiche, però la scrittura ha sempre fatto parte della vita di Sacks. Col tempo e con la consapevolezza acquisita nel suo lavoro, semplicemente la scrittura ha cambiato forma. Per anni ho scritto moltissimo, in quel caso però si trattava degli appunti sui miei pazienti. Scrivevo migliaia di appunti all'anno e per decenni, e mi piaceva. Sono un narratore, nel bene e nel male. Però torniamo alla nostra storia. Abbiamo lasciato Oliver Sacks in California ed è in piena sperimentazione, non solo neurologica, ma anche personale, perché lui intanto prova molte droghe e soprattutto comincia a avere una pericolosa abitudine all'anfetamina. In un certo senso, la parte positiva dell'uso di droghe è che mi rendeva più empatico e mi permetteva di comprendere, per mia stessa esperienza, quello che i pazienti provavano. Però forse a un certo punto il bisogno di comprendere i propri pazienti ha il sopravvento sul bisogno di drogarsi. Forse è una questione di vita o di morte. Fatto sta che le dosi di anfetamina che lui assume in quel periodo sono massicce, i suoi amici lo danno per morto prima dei 35 anni, insomma tutto concorre a una svolta e la svolta avviene. Sacks smette con le droghe, con la vita sregolata, decide di lasciare la California, che certo in qualche modo lo invoglia a quel tipo di vita. Va a New York, è il 1966. Credo che in un certo senso venni a New York per cercare un centro, per trovare me stesso, un senso della realtà. E probabilmente lo trovai quando iniziai a visitare i pazienti. E viene assunto al Beth Abraham Hospital nel Bronx, qui che viene a contatto con i suoi pazienti più particolari, perché nella struttura vivono da decenni un'ottantina di persone che sono colpite da encefalite letargica, che è una malattia comparsa come epidemia intorno agli anni 20. Come conseguenza dell'infiammazione dell'encefalo, i malati cadono in uno stato di letargia profonda. I saw motionless people like statues. Vidi persone immobili, come statue, spesso con strane posture, catatoniche. E nonostante i miei trascorsi psichiatrici, non avevo mai visto niente di simile a queste persone trasformate in pietre. Alcuni di essi erano in ospedale da 30 o 40 anni. E mi chiedevo cosa potesse esserci dentro a queste persone, se avevano una loro interiorità. Poi vidi un paziente starnutire e in quel momento uscì fuori dalla catatonia e dal Parkinson per 30 secondi. Poi tornò di nuovo all'immobilità. Ma in quei 30 secondi vidi la sua personalità e una manifestazione di umanità. and something of a human life had been revealed. E associando alcune delle manifestazioni dei malati di letargia a alcuni sintomi del Parkinson, Sachs ha l'idea di somministrare un farmaco che in quel momento sta dando buoni risultati proprio contro il Parkinson. L'L-Dopa oppure la Levodopa. The effects of this were incredible. Within a week. Gli effetti furono incredibili. Dopo una settimana e per alcuni pazienti anche in meno tempo, si risvegliarono. I loro volti di pietra si fusero in sorrisi. Se mi guardavo in giro vedevo occhiolini, sentivo sussurrare. Muscoli rimasti inutilizzati che ricominciavano a funzionare. Si percepiva un'atmosfera festiva. Forse perché era l'estate del 69 e alcuni pazienti iniziarono a domandarsi quanti di loro avrebbero potuto tornare a una vita normale ed essere curati del tutto. Beh, è un colpo d'ala che cambia la vita di tante persone e la storia della medicina, della neurologia, e lui descrive l'esperienza con i malati di letargia in uno dei suoi libri più famosi, Risvegli, che nel 1990 diventerà un film con Robin Williams nei panni del dottore, con Robert De Niro in quelli di uno dei suoi pazienti. Vuole lasciare un messaggio o vuole richiamare? Prego. Io sono il dottor Malcolm Sawyer e ho un appuntamento. Si accomodi, prego. Salve, sono il dottor Sawyer. Lei sa dove si trova? Come si sente? Benissimo, grazie. Poi diventa più facile. Le sembrerà impossibile, ma è così. Il film ha un grandissimo successo. Suggella tra l'altro l'inizio di un'amicizia vera tra Oliver Sacks e l'attore Robin Williams. Ma purtroppo la medicina vive di alti e bassi. A volte sembra di essere vicini a una soluzione che invece è ancora lontana dall'essere raggiunta. È quello che accade in questo caso, perché purtroppo la sperimentazione con i malati di letargia va bene all'inizio e poi però si scopre che dopo un periodo iniziale di miglioramento, di uscita dallo stato catatonico, gli effetti della L-Dopa si perdono. Insomma, i pazienti ritornano come prima. Mi ritrovai pieno di sensi di colpa. Mi chiedevo cosa ho fatto a queste persone. La medicina è forse stata una falsa promessa. Li abbiamo risvegliati dal loro stordimento solo per scaraventarli in uno stato di tormento peggiore dello stato di trance in cui vivevano. Però l'insuccesso del suo trattamento, come è giusto che sia, non ferma Sachs. Continua con la ricerca, continua con il trattamento di pazienti affetti da patologie neurologiche. Insomma, per un certo periodo si occupa di persone affette da diversi tipi di lesioni al cervello, per esempio. Il risultato dei suoi studi è un saggio che si chiama L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello. È un libro meraviglioso che vi consiglio, è uno dei rari casi, almeno per quanto mi riguarda, di libri letti due volte. Con tutti i libri che ci sarebbero da leggere nel mondo, decidere di leggere due volte un libro, secondo me, è una scelta impegnativa per te stesso e per il libro. Bene, questo è un libro che io ho letto due volte. È un libro che contiene diverse storie veramente incredibili, commoventi, intense. Non so, c'è la storia di un musicista colpito da una forma particolare che gli diagnosia, si chiama, una forma che gli rendeva difficile distinguere gli oggetti dalle persone, e a volte proprio scambiava la moglie per un cappello, con la conseguenza che cercava di indossarla. Ma in questo libro ci sono centinaia di casi che vi lasceranno veramente a bocca aperta. E lo stesso Sachs, peraltro, è stato afflitto per tutta la vita da prosopagnosia, che è una malattia che gli impedisce di riconoscere i volti delle persone, a volte addirittura anche il suo. Qualche volta ho avuto la ridicola sensazione di non riconoscere me stesso. A volte mi è successo di andare quasi a sbattere contro un omone con la barba e iniziare a dire scusi, per poi accorgermi che era solo uno specchio. It was a mirror. E col passare del tempo Sachs continuò a occuparsi di varie patologie, dalla sindrome autistica alla sindrome di Tourette, che è una malattia quella che provoca spasmi fisici compulsivi e anche uscite verbali assolutamente inappropriate. Da molte di queste esperienze nascono nuovi libri. The act of writing. L'atto dello scrivere, quando funziona bene, mi regala un piacere, una gioia che non posso paragonare a nient'altro. Mi trasporta in un altro luogo, qualsiasi sia il soggetto che sto affrontando. Ne sono completamente assorbito e dimentico ogni altro pensiero, ogni preoccupazione e in effetti anche il tempo che passa. Passage of time. E infatti il tempo passa e come? E come a tutti, il tempo porta cose belle e cose brutte. Cominciamo da quelle belle. Alla veneranda età di 77 anni, dopo 35 anni di castità assoluta e totale, per Sax arriva un amore liberatorio, l'amore nei panni di uno scrittore del New York Times, che dal 2008 e in poi gli sarà sempre accanto. Ma abbiamo detto che il tempo porta anche cose brutte. Tra le cose brutte c'è la malattia che si manifesta improvvisamente nel 2006. Things tend to happen with me on... La mattina di un sabato mi successe una cosa. Ero stato a nuotare come al solito e poi mi feci una doccia. Mi stavo lavando i denti quando mi accorsi come di una specie di velo. La mia vista era come appannata. Mi dissi: che buffo. Mi pulì gli occhiali, ma non erano loro i responsabili. Poi, durante il weekend, mentre le ore passavano, la vista mi si oscurò completamente nell'occhio destro. Vision was entirely obscured in the right eye. E come aveva fatto per tutti i suoi pazienti, anche la perdita della vista dell'occhio destro, dovuta a un melanoma, diventa una materia di uno studio. Però questa volta il finale non è buono, perché all'inizio del 2015 Sachs annuncia che il tumore è passato dall'occhio al fegato e al cervello. 9 anni fa si è scoperto che avevo un raro tumore dell'occhio, un melanoma oculare. Le radiazioni con il laser utilizzate per rimuovere il tumore alla fine mi hanno lasciato cieco in quell'occhio. In generale, i melanomi oculari hanno un rischio del 50% di andare in metastasi e, data la particolarità del mio caso, le probabilità erano anche minori. Ma purtroppo sono tra quelli sfortunati. Una incredibile, encomiabile lucidità anche in prossimità di una diagnosi così atroce e in prossimità della fine, perché circondato dagli affetti, dai libri, dalla musica, Oliver Sacks si spegne a New York. È il 30 agosto del 2015. Il suo più grande lascito attraverso le sue storie è stato quello di restituire al malato mentale identità, dignità nella sua esistenza, perché non più solo, chiuso nella oscura camera della sua mente, c'è stato qualcuno che ha saputo mostrarla, questa camera, e in qualche modo nobilitarla. Una grande eredità. E così il colpo d'ala del nostro protagonista è proprio questo: raccontare agli altri ciò che ancora il mondo non sapeva e in qualche modo rendere poetico il dolore, e istruttivo e propedeutico per cercare di uscire dalle malattie che un giorno qualcuno risolverà, in attesa che se ne presentino delle altre. Ci sono storie spesso sconosciute di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala, e Oliver Sacks è stato proprio questo, un colpo d'ala che è passato sulla scienza e sulla letteratura. Ognuno di noi nella vita può cadere, ma può anche volare molto in alto. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui volete che venga puntato il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure visitate la nostra pagina, oppure venite a trovarmi nei miei social, o trovarci insomma nei nostri social, se volete sapete dove sono. Ciao, a lunedì.